tormento non ha senso, perché io sono insoddisfatto dentro di me. È come navigare senza un'idea di come soffia il vento in alta mare. E sono perplesso, e sono perplesso, e sono perplesso. Vorrei un figlio o una figlia e un cane pastore. Avido e capriccioso, avido e capriccioso.